Il punto di Stefano Folli. Curiosa coincidenza, a poche ore dalla fatidica sentenza, ecco che sembra sbloccarsi la riforma della legge elettorale. Potremmo essere insomma vicini a dire addio al vituperato Porcellum, un tema antico, sempre rinviato per colpa dei partiti, nonostante le pressioni del capo dello Stato. Ora invece Berlusconi e il PDL hanno dato il via libera. È un segnale non tanto piccolo di quello che sarebbe in grado di fare la grande coalizione se ne avesse la volontà e se fossero allontanate le nuvole dell'instabilità. In altre parole, dal partito di Berlusconi è un altro messaggio indiretto inviato ai magistrati della Cassazione affinché tengano nel dovuto conto i risvolti politici del verdetto. Abbastanza chiaro. E in ogni caso oggi sapremo tutto.